Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. 216.000 tonnellate per un controvalore economico stimato intorno ai 140 milioni di euro. A tanto ammonta la raccolta dei rifiuti elettronici in Italia, parte dei quali raccolti sulla base del ben noto meccanismo dell'uno contro uno, ovvero la regola per cui se per esempio compro un nuovo computer in un negozio posso lasciare allo stesso negozio il mio computer ormai obsoleto e ci penserà lui a smaltirlo correttamente. I dispositivi elettrici ed elettronici d'altronde sono una miniera di elementi rari, tra cui anche vari metalli preziosi, che possono essere recuperati e riutilizzati, tanto che si parla addirittura di miniere urbane, e che invece al contrario dispersi nell'ambiente questi materiali potrebbero causare evidentemente gravi danni. Ecco perché si punta a potenziare ulteriormente il meccanismo di recupero dei rifiuti elettronici e poche settimane fa il Ministero dell'Ambiente ha annunciato l'introduzione dell'uno contro zero. Ne parliamo con Davide Rossi, che è direttore generale di Aires, l'associazione italiana rivenditori elettrodomestici specializzati. Buonasera Rossi. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora, partiamo dagli esercizi commerciali. Quali esercizi commerciali riguarda questa nuova norma, diciamo così, che ancora in realtà per essere completata ha bisogno di un decreto attuativo? Mentre l'uno contro uno riguarda tutti, assolutamente tutti gli operatori, sia fisici che online, che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'uno contro zero ha un spettro di copertura inferiore, nel senso che sono obbligati al ritiro dei piccolissimi cosiddetti elettrodomestici, cioè quelli che sono sotto i 25 centimetri di diametro per lato maggiore, quindi parliamo di caricabatterie, telefonini, rasoi, insomma principalmente di questo tipo di prodotti, i soggetti obbligati al ritiro anche senza la necessità di un acquisto, quindi uno contro zero. È questo che vuol dire, cioè io ho una batteria da buttare o un rasoio, non c'è bisogno che ne compri uno nuovo per chiedere al negoziante di ritirare il mio rasoio usato, diciamo. Esattamente. Il negoziante è tenuto a fare questo ritiro se la sua superficie espositiva di apparecchiature elettroniche è superiore ai 400 metri quadri. Ora è difficile stare a mettersi lì col metro, insomma, capire, diciamo, che tutti i negozi un po' grandicelli mediamente sono tenuti a questo ritiro. Non necessariamente i negozi grandi, ma che hanno una piccola parte di elettrodomestici, non so, penso ai negozi che troviamo lungo l'autostrada, ai negozi di alimentari che magari hanno molti supermercati o centri commerciali che oggi magari hanno un angolo dedicato a questi apparecchi. Quindi probabilmente sono esclusi. Sono esclusi dall'obbligo, ma tutti i negozianti, sia quelli grandi che quelli piccoli, che questi grandi supermercati, hanno la facoltà di ritirarlo su base volontaria. Ora, le modalità con cui questo potrà essere fatto dipenderanno appunto da questo decreto attuativo ed è per questo che c'è grande attenzione sul fatto che il Ministero lo predisponga ascoltando un po' tutte le esigenze. Ecco, infatti, perché qui veniamo un po' alla seconda parte. Se da un lato è evidente che questo è un fatto positivo per molti cittadini, un'opportunità di aumentare anche l'entità della raccolta dei rifiuti elettronici, perché siamo lontani, diciamo, da avvicinarci anche solo alla metà dei rifiuti elettronici totali prodotti in Italia. Dall'altro lato è chiaro che questo è un bel impegno, insomma, per la vostra categoria, e ci sono alcuni aspetti, forse anche normativi, facendo attenzione ai quali, insomma, potremmo evitare guai. Ecco, se ci spiega un po' quali sono i problemi. Ma sì, ce ne sono alcuni, diciamo, di immediata percezione, e mi concentrerei addirittura su questi, e poi ce ne sono degli altri invece che guardano un pochino più la gestione vera e propria una volta che il prodotto è ritirato e i nostri rapporti con coloro che verranno ritirando e quant'altro. Mi concentrerei sulla prima problematica, cioè la necessità che non ci siano momenti burocratici complicati per il consumatore. Ovviamente se dovessimo chiedere a ogni consumatore che ci vuole consegnare appunto una batteria, un telefonino, un caricabatterie, ad esempio i documenti, come in una carta di identità, la carta d'identità, tenerne fotocopia e quant'altro, chiedergli di compilare un modulo, cose di questo tipo, ovviamente ci troveremo di fronte, prima di tutto da parte del consumatore, la sensazione che noi ci inventiamo delle problematiche burocratiche per rendere difficile questa. Sì, è una scocciatura per il consumatore, ma è anche una bella scocciatura per voi, che avete una persona che deve star lì a far tutta sta burocrazia, insomma. Assolutamente, no? È una grande scocciatura, e soprattutto, ripeto, sembra esattamente entrare in senso opposto rispetto rispetto all'obiettivo, che è quello del fatto che la gente con grande semplicità possa venire da noi e lasciare quello sembra, che deve lasciare. Sembra un po' l'ufficio complicazioni affari semplici, come si suol dire. Ecco, questo è un primo problema. Poi ce ne sono altri? No, ce ne sono anche altri che riguardano più specificamente l'informazione al pubblico. Certamente noi abbiamo già fatto, alcune nostre catene peraltro sono già attrezzate, diamo già informazioni al pubblico su tutti i loro doveri, su tutti i loro diritti e i doveri che sono delle nostre catene, dei nostri negozi. Però sarebbe anche bene che un po' di informazione fatta con risorse pubbliche venisse fatta. In questo momento noi non vediamo grande informativa al consumatore finale sul fatto che ci sono queste opportunità, sul fatto che il prodotto elettronico debba essere conferito correttamente. Grazie Davide Rossi. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.